Docente è una parola grossa. Vivo malamente in un professionale, sul registro scrivo italiano e storia, e poi succede di tutto. Ogni tanto faccio anche italiano e storia. Prima ho vissuto alle medie, stavo un po' meglio, scrivevo anche geografia, e da 24 anni, un anno di meno di quelli che hanno il figlio, mi occupo di nuove tecnologie. E mi trovo di nuovo, volutamente per carità, ma con un certo rammarico, a parlare delle tecnologie di comunicazione, come giustamente le ha definite Gennaro, considerate come condizionante la nostra comunicazione il fatto che io usi una tecnologia rispetto a come è stata per esempio la comunicazione di audio. Perché Alta ha usato come tecnologia soltanto se stesso, lui ce la fa, io non ce la faccio, usare soltanto me stesso, e devo usare delle slide per fissare alcuni concetti. Allora, io mi occupo di tecnologia della comunicazione e con un certo rammarico ne parlo sempre come qualche cosa di separato, cioè come qualche cosa di cui la scuola si è occupata in modi abbastanza curiosi. Scusa, insegni TIC? No, assolutamente, non insegno TIC, ho molti TIC, ma non insegno TIC, il mio intervento si divide in una pars destroens e in un tentativo di pars construens, perché un po' di ottimismo l'ho ancora conservato, e in un'introduzione, quella slide, che cerca di dire perché, come diceva anche Marina all'inizio, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il cui acronimo è davvero pessimo, sono paradigmatiche di una serie di atteggiamenti, di mentalità, di impostazione, di formazione che la scuola ha vissuto almeno negli ultimi 14 anni, cioè l'età di un ragazzino di scuola media. Le TIC sono state, sono e saranno, nonostante siamo nell'epoca della scuola del taglio, del risparmio, obiettivo di investimenti rilevanti. Per il prossimo anno è previsto di spendere qualcosa come 16 milioni di euro per le lavagne interattive multimediali, secondo due modalità di erogazione del tutto un po' diverse. In un caso è stata fatta una gara per cui immediatamente è stato fatto un ricorso ed è bloccata, perlomeno se non si è sbloccata in questi giorni è ancora bloccata, con un finanziamento a carattere nazionale. Nell'altro caso i soldi vengono dati direttamente alle scuole, insomma nella primaria, nella secondaria di primo grado entreranno le lavagne interattive multimediali. Per dire l'ultima cosa che ci può venire in mente, ma avete sentito tutti parlare di ebook, della questione di libri digitali. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono state vissute come principale, mi viene addirittura da dire, come uno dei fondamentali veicoli con cui la didattica poteva essere innovata. È stato quasi instillato in alcuni un senso di colpa in certi momenti, quando ancora forse nella scuola c'era un po' di entusiasmo, c'era un po' di etica professionale, un po' di deontologia. Devi in qualche modo entrare in relazione con le tecnologie della comunicazione, perché le tecnologie delle comunicazioni, chiamate spesso informatiche, saranno certamente uno strumento che ti consentirà di innovare la tua didattica e ti consentirà di innovare la comunicazione scuola. Guardate che noi oramai ragioniamo su di una realtà che ci sembra strutturata, ma che ha pochi anni, per esempio è un certo numero di anni, ma non moltissimi, che noi non riserviamo più il cedolino di carta, ma siamo obbligati per vedere il nostro cedolino ad aprire una casella di posta sul dominio istruzione.it e di conseguenza a scaricare. Le tecnologie sono state pensate come luogo di ridefinizione dei profili professionali. Per esempio c'è stato un momento, uno dei primi momenti, il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, subito andremo più avanti, in cui nelle enunciazioni del ministro Lombardi si diceva che sarebbe stato possibile pensare a particolari figure di sistema che in qualche modo assumessero la delega nelle scuole di preoccuparsi dell'innovazione, eccetera eccetera. Più in generale, insomma, la formazione è costante, i nuovi assunti entrano in formazione, entrano a scuola e fanno formazione attraverso questi strumenti. È stato sempre di formazione ed è stato argomento di innumerevoli e rituali iniziative di dibattito. Pensate a come si ripetono anno dopo anno iniziative come il convegno dell'AICA, l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che si chiama ancora così, eccetera. comincia quello che mi piace di più fare, cioè tirare fuori i denti alla mentalità comune. Allora, ho citato prima il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, ve lo inquadro un attimo. Ottobre 1995, governo Dini, ministro Gombani, esce una direttiva che dice 140 più 1 di letterale 141 scuole del territorio diffuse su tutto il territorio nazionale devono verificare la fattibilità e l'efficacia di percorsi didattici che utilizzino le tecnologie della comunicazione. Siamo a ottobre del 1995. Ci si mette un anno a mettere in piedi il meccanismo, non sto ad annoiarmi con i particolari. L'idea della verifica di fattibilità ed efficacia si perde perché nel frattempo il nuovo ministro Luigi Berlinguer, siamo nel 1997, e poco dopo le elezioni vinte dal si chiamava Olivo, che cosa fa? Avvia la seconda fase del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, che viene chiamata programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000, che prevede l'allocazione di fondi a pioggia a tutte le scuole a prescindere dai risultati di MOOC. Non so quanti di voi sono in grado di rievocare questa vicenda nella propria scuola, ma è andata esattamente così. Mi riservo eventualmente di documentare con riferimenti specifici alle circolari, alle direttive, ai decreti, non credo che se ne siano stati. Quindi, se non c'è un piano di investimento scoordinato, ce ne sono stati fatti altri, ma questo è un esempio, voglio dire, di piano di investimento assolutamente scoordinato, la cui dichiarazione di finalità iniziale viene contraddetta dalle decisioni successive. Potremmo vedere un sacco di altri episodi di questo genere, ma questo è uno, tra l'altro piace di precisare che lo scoordinamento e la frammentarietà sono assolutamente bipartisan, come dire, cioè la politica scolastica nel campo delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni soffre, a mio giudizio ovviamente, di alcuni di questi aspetti e ne soffre da tempo con il succedersi di ministri diversi con intenzioni politiche diverse. Sono state finanziate iniziative non ripetibili, questo è frequentissimo. Torno alle lavagne, così parliamo del futuro. Che cosa significa introdurre una lavagna interattiva multimediale in ogni scuola? Significa introdurla in un'aula. Gli aspetti tecnici dicono che è meglio installarla in un'aula in modo fisso piuttosto che farla muovere, perché sennò ogni volta bisogna ricalibrarla, insomma questioni, attrezzare, e quindi si perderebbe un sacco di tempo. E che cosa significa? Significa collocare in una classe una risorsa che non è chiaramente estendibile. Ecco, ma di queste cose nel nostro nel percorso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ne sono state fatte una quantità enorme. Se voi andate su sofia.it, che è uno dei siti dove c'è una sorta di descrizione costante di quello che in Italia viene fatto, vedrete quante di queste cose non ripetibili sono state finanziate. Il concetto di innovazione è diventato la novità per la novità. E tra l'altro il concetto di novità che viene veicolato dal punto di vista culturale è abbastanza curioso, perché la novità è concepita come rottura col passato. Cioè la novità è la cesura, è l'assunzione di continuità, è ciò che diventa, rende, dovrebbe perlomeno rendere la situazione diversa rispetto a ciò che è preceduto, il che è in totale contraddizione con alcune delle teorie più diffuse sull'apprendimento, per esempio, no? Dove ciò che noi apprendiamo dovrebbe entrare in rapporto sinergico con ciò che già noi non solo conosciamo, ma già siamo, le nostre emozioni. Le unità scolastiche sono diventate concorrenziali. Io me lo ricordo bene il 1997, cioè il primo anno della seconda fase del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche. Come funzionava? Funzionava così: le scuole presentavano dei progetti e poi delle equip dell'amministrazione scolastica, provveditorati erano i soggetti, ma ispettori eccetera, dovevano decidere che in quella scuola si davano i soldi e in quell'altra no. Eravamo prima del decreto sull'autonomia. Questo era un primo esempio di come si inseriva una concorrenzialità sulle cose, questa scrittura nel dettaglio, tra le scuole. Tenete conto poi che nel corso degli anni è stato inoculato anche qualcos'altro, cioè non, in tutto il nostro paese ci sono soltanto investimenti nella scuola di carattere statale, in molti luoghi ci sono investimenti nella scuola, senza pensare agli investimenti privati, di carattere pubblico, per esempio gli enti locali, eccetera, eccetera. Le situazioni si sono rapidamente differenziate, ci sono luoghi di cui si parla poco, che sono per esempio la regione Valle d'Aosta e la regione Trentino Alto Adige, dove c'è un regime scolastico tratto diverso, dipendente dal regime di autonomia di quelle due regioni, dove gli investimenti nella scuola sono molto, molto rilevanti. Per cui insomma ci sono situazioni diverse, fino al punto che certe situazioni periferiche, dal momento che non ci sono investimenti eccetera eccetera, hanno avuto inoculata una sorta di senso di inferiorità. E poi la cosa più drammatica, più brutta, che è questa qua, di cui il percorso multilab, il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, costituisce il paradigma. Si reinveste senza aver fatto nessuna verifica che ciò per cui si è speso abbia avuto efficacia, abbia avuto qualche risultato. Per quello che riguarda la didattica, non a caso si usano dei concetti molto ambigui. Ancora adesso, se voi andate in una scuola, con ogni probabilità vi diranno: lo scrutinio lo stanno facendo nel laboratorio di informatica, perché qua adesso c'è anche quest'ultima mania, quella di usare le tecnologie per far durare due ore gli scrutini che sulla carta durerebbero mezz'ora, perché in genere poi il computer lo sta, insomma, ci sono queste cose divertenti. Oppure i primi momenti di conchiglia, ve lo ricordate, altra clamorosa sola arrivata nelle scuole, e di cui quest'anno poi c'è stata una sorta di dismissione, poi una... Sì. Cioè, vi ricordate, cioè, la palla è passata da Invalsi al Ministero. Ecco, allora si dice ancora adesso, alcuni insegnanti, i primi, hanno imparato a usare conchiglie nel laboratorio di informatica. Cioè, c'è questo concetto di informatica confuso con multimedialità, con dimensioni digitali della cultura, con tecnologie di comunicazione. Insomma, abbiamo oscillato tra l'idea di insegnare le tecnologie, appunto, oppure, e questo io l'ho provato a fare, poi mi diventa sempre più difficile, oppure di apprendere con gli strumenti digitali. Sono due cose diverse, sono due poli diversi, sono il bianco e il nero di posizioni che sono sfumabili all'interno, ma sono due modi diversi che spesso sono stati sovrapposti. Questa è una sottocategoria di quanto ho già detto, cioè nel momento in cui si decide di investire senza verificare l'efficacia di ciò per cui si investe, va benissimo la politica dell'intenzione. Va benissimo la politica dell'intenzione, cioè io dichiaro delle intenzioni e come tali, e ripeto, questo è un atteggiamento assolutamente bipartisan, e come tali procedo, cioè la volta successiva metto in piedi un altro progetto che dichiara delle altre intenzioni, ma non c'è nessuna verifica se quelle intenzioni sono state in qualche modo. Questo devo dire, questo aspetto qui è assolto una sottovoce, ma è successo. Si è teso a lavorare soprattutto sull'aspetto strettamente tecnico, questo è stato, come dire, perdere l'aspetto di comunicazione, l'aspetto di relazione culturale delle tecnologie a favore della pratica tecnologica. Non è un caso che nelle scuole, in alcune scuole, si corra dietro all'ultima versione del programma di Office Automation, all'ultima versione del browser, all'ultima versione di qualsiasi cosa. Soprattutto è stata costruita intorno alla didattica attraverso l'uso delle tecnologie una prospettiva del tutto totalizzante, olistica, chiusa in se stessa, che non viene più scomposta. Io credo che sia un merito a quello che vi sto dicendo, è quello di, ammesso che abbia senso ovviamente, di accendere qualche luce, di togliere un pochettino di nebbia, di, attraverso un atteggiamento ovviamente, una modalità di comunicazione provocatoria, far riflettere sul fatto che invece bisognerebbe allargare questa fissura che stiamo cominciando ad aprire, e su questo mi piacerebbe che si andasse avanti, si studiasse, si ragionasse, perché questa visione totalizzante, olistica, in realtà è diventata una sorta di monade chiusa su se stessa, di cui tutti parlano senza però andare a nessuna conclusione autentica. La formazione degli insegnanti, su questo è stato fatto veramente di tutto, ma guardate, non ci dobbiamo stupire, perché le tecnologie di comunicazione hanno avuto un merito, cioè quello di mettere gli insegnanti in condizioni di apprendimento. Lì le omeostasi non funzionavano tanto, perché in realtà era vero, cioè noi siamo arrivati siamo arrivati adulti in una situazione in cui siamo passati dall'aviro al computer, per cui la tecnologia di comunicazione, anche soltanto come strumento di scrittura, ci ha messo in condizione di apprendere. E di conseguenza ci ha messo nelle condizioni di accettare un rapporto di formazione che non fosse puramente formale. Vi ricordate un'altra genialata di qualche anno fa, le 100 ore di formazione che bisogna fare obbligatoriamente? Cioè, non ci metteva soltanto in quel rapporto lì, ma ci metteva in un rapporto, almeno alcuni di noi, quelli con la coscienza deontologica più approfondita e ancora entusiasta, di apprendimento vero. E sono stati fatti dei piani faraonici. Ne rievoco uno, quello più clamoroso, ma la cosa continua, l'investimento di denaro continua. Ve lo ricordate Fortic prima fase? Fortic prima fase prevedeva, guardate che, a ripeterlo fa ridere, perché c'erano il percorso A, il percorso B e il percorso C. Ci si divide in C1 e C2, il C1 lo potevano fare anche le persone della segreteria, il C2 invece soltanto gli insegnanti, cioè le persone con la laurea. E l'idea del percorso A era familiarizzare tutti gli insegnanti con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e per far questo si scelsero degli esercizi legati alla patente europea del computer destinati agli impiegati comunali. Sì, era noiosissimo, ma poi dava l'idea di come in realtà non si fosse nessun rispetto del profilo professionale. Le figure B devono essere le persone, gli esperti di didattica con le tecnologie delle scuole. C'era una sorta di ammiccamento a una figura contrattuale che nel frattempo però scomparve, anche se nessuno se ne accorta, che era la figura obiettivo. Pino mi può correggere. Cioè l'idea di una persona che esercitava un ruolo, e quindi la costruzione di una figura di sistema. Peccato che noi siamo slittati verso le funzioni strumentali. Adesso tutti continuano a dire: io sono una funzione strumentale, e non dicono, come credo sia più corretto, a me è stata assegnata una funzione strumentale. Comunque c'è una sorta di idea, no? Perché si costruiva una figura strumentale. C2 doveva costruire una figura strumentale, D era per le tecnologie della didattica, C per le tecnologie di sistema, la costruzione di reti, le reti di scuola. Vi ricordate come andavano di moda questi slogan? Non se ne è fatto niente. Si sono spesi i soldi e non se ne fa niente. Perché i termini contrattuali per fare questo non c'erano, a parte probabilmente non c'erano, come tutti sappiamo, delle risorse economiche per tenere sul lungo periodo. Le piattaforme di formazione a distanza oramai sono un atto di fede. Sono un atto di fede perché mediamente mettono in difficoltà, non sono intuitive, si capisce poco, è molto più comodo leggere la gran parte dei documenti su carta, ma non si può dire perché non è alla pace. Perché si viene immediatamente accusati, dice. È ora di dirlo, certe intensità concettuali sono veicolabili soltanto con certi strumenti. E poi avete presente io non so mai se dire e tutor oppure i tutor, che è veramente terrificante. I e tutor sono coloro che dovrebbero insegnarmi a cliccare, più o meno sono un'invenzione di Fortuna. Sono delle persone che hanno delle tali abilità nelle pratiche tecnologiche che dovrebbero essere in grado di gestire qualsiasi contenuto culturale a prescindere dal contenuto culturale medesimo. Una follia totale. Sono dei giratori di pagine, peccato che ne esistono altri, però quando qualcuno gli girava le pagine c'è qualcosa che non funziona. E sugli tutor però sono nate delle associazioni, tra l'altro al di fuori del mondo sindacale da tutti noi frequentemente frequentato, con tendenze un po' neocorporative, eccetera eccetera, roba di qualche anno fa, però di nuovo è interessante perché non si possono mettere, o perlomeno io cercherei di cominciare a mettere in discussione i presupposti teorici. Sono contraddittori, assolutamente. Pensate un esempio: qualche mese fa Maria Star se ne uscì dicendo che l'informatica non era una priorità, ve lo ricordate? Ci fu una reazione, il blogger esploso. Gli insegnanti smanettoni avevano veramente il fumo che gli usciva da loro. Dicevano: ma come? Noi togliamo alle nostre generazioni la possibilità di imparare a scuola la grammatica dell'uso delle tecnologie. E questa era una posizione. Dall'altra parte, magari le stesse persone parlavano dei digital natives, cioè delle persone, i bambini, coloro che nascono in questo momento, anche gli adolescenti, in questo periodo storico, che sono più adatti costituzionalmente, anche cognitivamente. Cioè, le due cose, se ci pensate, non stanno tanto insieme. che da una parte c'è l'idea della necessità di un intervento adulto e dall'altra parte invece c'è l'idea di un rovesciamento dei ruoli. Però se voi andate a vedere i dibattiti, queste due posizioni sono assolutamente spesso sovrapposte, ci sono persone che utilizzano strumentalmente. Un'altra cosa, i materiali culturali, soprattutto per le primissime esperienze di formazione, erano assolutamente, con ogni evidenza, raccogliticci, fatti senza piani relazionali definiti, lottizzando, ho scritto parecchie cose, quindi a mia volta sono lottizzando quella, università, SIS, eccetera, eccetera, come è costume di questo nostro paese. Vi è mai capitato di usare i materiali di Fortic? Provate a vedere, provate ad andare a vedere quante volte il modo in cui vengono proposti i contenuti ha una relazione con il modo in cui sono, con i contenuti stessi, o piuttosto non ha, come dire, non è il frutto del fatto che qualcuno deve intervenire in quel passaggio della filiera e deve essere giustificato il fatto che assuma un ruolo che manipola i contenuti. È più frequente di quanto si possa credere. Vedete quante cose ci sono nella formazione. Gli oggetti feticcio, vi ho citato dei libri, non me ne sto a citare degli altri, ma ce ne sono feticcio in senso positivo e in senso negativo, cioè contro cui scagliarsi o dei quali immediatamente innamorarsi. Nelle scuole sono state costruite a volte delle figure specialistiche, ma il più delle volte erano figure specialistiche che costruivano la loro presunta delega, la loro presunta capacità di produrre innovazione esclusivamente sulle pratiche tecnologiche e non certo sul fatto di aver davvero coniugato pratiche tecnologiche e dimensioni culturali, dimensioni pedagogiche, aspetti cognitivi, eccetera, eccetera. In realtà, come dire, noi stiamo declinando in modo sempre più analitico due o tre concetti. Quello fondamentale è proporre iniziative delle quali non è stata fatta nessuna verifica. Guardate che banalmente, ma se ne spengono anche i media sono sempre attentissimi a dire, dati Ocse soprattutto, la scuola italiana non ce la fa. Ma nessuno ha mai scritto che forse allora, considerati quei dati e quei livelli di conoscenza e di competenza, forse anche gli investimenti sulle tecnologie non hanno prodotto nulla, o forse per certi aspetti sono stati addirittura controproducenti perché hanno, potrebbe dirlo Mario Tirani, questo perché hanno deviato l'attenzione su pratiche inutili ai fini dei veri saperi, potrebbe dirlo Paolo Mastrocolo, potrebbe fare un ragionamento di questo tipo. Ma non è stato detto questo, perché la mitologia costruita intorno alle tecnologie ci ha esonerato da anche questo tipo di ragionamento. I formatori sono, non è vero nel caso delle LIM, ma insomma, mediamente sono stati selezionati in modo poco trasparente. Qui c'è un elenco di iniziative, su cui non sto ad annoiarvi, successiva a quelle che ho citato prima, che sono palesemente, basta andare a vedere quello che è successo, basta raccogliere qualche dato, sono palesemente uno spreco. Però su questo è stato inventato un meccanismo interessante, non credo che l'invenzione fosse intenzionale, ma credo che infatti abbia funzionato in questo modo, ed è l'idea per cui si accede con nome utente e password. E questo è il contrario della trasparenza. Il nome utente e la password sono giustificati per la riservatezza, sono giustificati perché ci deve essere un tracciamento, un riconoscimento dell'utente, un tracciamento delle sue attività, ma dal punto di vista socioculturale non sono giustificati, perché in questo modo non c'è nessuna visibilità dal punto di vista della società civile, dei cittadini, dei contribuenti, eccetera, su quello che autenticamente avviene in questi ambienti dove in realtà tutto viene declinato in modo puramente tecnologico. Di questo in qualche modo ho già parlato. Ogni volta che c'è una novità c'è un seminario, ogni volta che c'è un seminario si produce qualche pubblicazione, eccetera, eccetera. I monitoraggi, quello più famoso, quello che ha fatto a scuola, che ha costruito il paradigma, è appunto il monitoraggio su Multilab, da cui sono partito, adesso ci torno. E il monitoraggio su Multilab, anziché monitorare i risultati degli studenti, sapete cosa ha monitorato? Ha monitorato il modo in cui sono stati fatti i corsi dei formatori e dei tutor. Che è molto interessante, per carità, ma poi si è fermato lì, perché palesemente non c'era bisogno di andare oltre. Pass conference, in realtà basterebbe prendere molte delle cose che avete visto e rovesciarle, anticipiamole una. verificare i risultati di apprendimento, fare gruppi di controllo, definire protocolli scientifici e non enunciare intenzioni. Potrei anche fermarmi qui. Questa però è una battaglia politica, culturale, difficile da fare, perché in questo momento il sistema della casta e delle lobby del nostro paese funziona in tutt'altra direzione. Le filiere con le quali abbiamo a che fare sono filiere che producono organigrammi, producono pubblicazioni, producono potere culturale. Potere culturale, se non potere amministrativo e sottopotere. Allora, qualche proposta a proposito dei piani di investimento. Le scuole devono essere dotate, ma non per pauperismo, di strumentazioni tecnologiche che poi siano estendibili. Guardate, io sono stato oramai 4 anni fa a fare formazione dentro il progetto europeo in Argentina. Ed era pochi anni dopo lo shock, come lo chiamano loro, anche il shock. Quindi stavo molto attento. E ricordo la scuola in cui sono stato, che era una delle scuole principali di Buenos Aires, attuava una politica interessante, cioè teneva tutti i PC che la scuola aveva storicamente comprato, attrezzandoli in laboratori diversi, faceva fare un percorso agli studenti per cui utilizzavano dalle tecnologie meno recenti a quelle più recenti, ma non buttavano nulla, non so come dire, perché investivano il denaro in modo un pochettino più riguardo. Allora, noi avremo bisogno di introdurre nella scuola tecnologie delle quali che sono possibili, la cui estensione è quantitativa, è possibile. Allora, non so se avete seguito ultimamente, ci sono alcune affermazioni che varrebbe la pena di andare a verificare. Una è l'affermazione del ministro Brunetta, il quale ha detto qualche mese fa, presentando un progetto che, ahimè, ha avuto origine a Torino, si chiama un computer nello zainetto, non so se l'avete sentito, che è un progetto che prevede che in un paio di classi piemontesi, in una per tutto l'anno e nell'altra per metà anno, è stato dato un PC, quelli con le maniglie, ad ogni bambino. E insomma, l'azienda che ha sponsorizzato la vicenda è riuscita ad entrare in contatto con il ministro Brunetta. C'è stata una presentazione, il ministro Brunetta si è impegnato a dare nei prossimi semestri 1 milione, questa è sempre questa la cifra, 1 milione di mini PC, 1 milione di mini PC alle scuole primarie, sì. Perché sono computer per bambini, ma in sé la cosa è anche giustificata. Poi non si capisce bene se significa caricarli sulle spese dell'erario pubblico oppure chiedere un contributo alle famiglie, non è ancora chiaro questo. Per esempio, sono i computer per bambini. Poi te lo spiego dopo, se mai. Sono delle cose, delle dimensioni di questo, più o meno. Allora, partiamo da un concetto diverso. Allora, i computer per bambini hanno il 73. Voi mi ricordate dove era arrivato? Allora, sono computer che hanno alcune caratteristiche. La prima è che hanno un'interfaccia, così si chiama la modalità di comunicazione, pensata per i bambini, icone grandi, simboli un po' diversi, figure accattivanti, eccetera, eccetera, colori. La seconda caratteristica che hanno è sono antiurto, cioè possono cadere da una certa altezza e non rompersi. Se noi abbiamo un cellulare, è certificato più o meno che il cellulare possa cadere dall'altezza di una tasca. Questo oggetto, se cade alla stessa altezza, si rompe. Un computer per bambini, se cade all'altezza di un banco, non si rompe in modo irreparabile, si ammacca. Oppure è antiacqua, cioè nel senso che se il ragazzino gli versa sopra la Coca-Cola non lo rovina, ha queste caratteristiche qua, è di dimensioni ridotte, ha una tastiera adatta alle mani dei bambini, alcuni hanno dei mouse di dimensioni adatte alle mani dei bambini, insomma ci sono i computer per bambini. Il più famoso computer per bambini è il computer che si chiama XO ed è quello del progetto di Negroponte, avete presente, quello di cui si è parlato, il computer a manovella, quello che doveva alimentarsi, insomma. Allora, i computer per bambini hanno un costo, come anche i netbook, cioè i computer da low cost, hanno un costo contenuto. Il problema è, paga tutti lo Stato, chiediamo un contributo alle famiglie, eccetera eccetera. Però queste sono decisioni che non possono dipendere dagli umori mattutini del ministro Brunetta, ma non per polemizzare con il ministro Brunetta o dagli accordi del ministro Brunetta con la qualche azienda. Devono essere questioni che sono, salvo poi passare attraverso la non fiscalizzazione. Se si ritiene di chiedere un contributo alle famiglie, questo credo che interessi, insomma, lo spirito confederale della CGIL. Poi bisogna definire gli standard minimi qualificati, cioè bisogna introdurre le cose che dicevo prima sostanzialmente e non permettere più le fughe in avanti. Poi il potere, il nostro divieto, non so quale sia sulle iniziative attuali, queste sono pure petizioni di principio. E mi piacerebbe che ci fossero dei tavoli di tutti, che coinvolgono tutti i soggetti istituzionali, privati o con scopo di beneficenza, tipo fondazioni che sono attive più di quanto noi crediamo in queste attività. Soprattutto per ragioni di trasparenza, quello che dicevo prima, cioè il fatto che il meccanismo, per esempio il nome utente password, non consente. Penso che deve essere valorizzato l'open source. L'open source sono i programmi a codice aperto che fondamentalmente circolano senza royalties, cioè senza pagamento, con riconoscimento, ma senza pagamento del diritto d'autore. Questi tre concetti andrebbero ripresi. Io non sono un fanatico di quelle cose lì, assolutamente, però è importante che questo ragionamento, cioè la possibilità di utilizzare dei prodotti che hanno un'ampia dignità e che possono ridurre certi costi, sia diffuso. Quando si enunciano le intenzioni, non ci si limiti agli aspetti positivi, agli aspetti messianici, all'immaginario post-positivista, ma si prevedono anche delle possibili difficoltà e dei possibili punti critici e si chiarino poi anche le procedure messe in atto. Attività ripetibili, estendibili a tutte le situazioni. Per la didattica, allora, primo, questo è un mio pallino, perché io vivo in una provincia dove, soprattutto nella scuola professionale, le cose che diceva Marina sono state, prima vi ricordate, quando parlava dello spendere l'obbligo anche nei corsi di formazione professionale. Io vivo in una delle province di Torino, dove la provincia di Torino, amministrata dal centro-sinistra da chi è amministrata, si è molto spesa per integrare la formazione professionale all'interno dell'istruzione professionale. E questo ha comportato una serie di cose, tra cui un utilizzo intenso dei laboratori multimediali delle scuole da parte dei formatori della formazione professionale che ci facevano cose tipo la patente europea del computer agli studenti, e soprattutto ha tolto su una serie di settori, non soltanto quelli tecnologici, alle scuole la possibilità di progettare, di decidere, di assumersi delle responsabilità, di fare delle scelte. Io credo che questo sia un punto di partenza. Bisogna abbandonare le retoriche di scenario, su questo ho già insistito, lì ne ho citate soltanto tre, quelle che vanno più maggiormente per la maggiore adesso, in nativi digitali, la scuola 2.0, la scuola aperta, che sono come se mai la scuola noi l'avessimo realizzata chiusa. Ci sono una serie di valenze operative e cognitive che l'ingresso dei computer nella scuola ha già messo in evidenza, che sono promettenti, che hanno raggiunto dei risultati in qualche caso, per esempio, anche se non se ne parla mai per quello che riguarda le disabilità, sono la flessibilità, la dinamicità, l'incremento, eccetera. Puntare su questo, cioè costruire una griglia di riferimenti specifici sui quali puntare senza più lavorare sul lei. C'è stato un pasticcio nel fare le slide. Bisogna smettere di addestrare e bisogna, per esempio, cessare di schiacciare la conoscenza dei computer a un unico sistema operativo, cioè a Windows, qui non per fare dell'anti-imperialismo postmoderno, ma semplicemente perché è vero, per esempio, che nel mondo intellettuale si usano altri sistemi operativi ed è bene puntare anche su questo. Gli obiettivi formativi devono essere verificati, i protocolli di sperimentazione devono essere rigorosi. I risultati delle sperimentazioni, guardate che questi non sono nient'altro che i criteri con cui si costruisce la cultura. E purtroppo non è soltanto, come diceva Marina all'inizio, che le tecnologie non hanno avuto la possibilità di spiegarsi con una dimensione autenticamente culturale. È successo qualcos'altro, che i punti fondanti della cultura scientifica sono stati persi, sono stati dimenticati, non sono stati rispettati i protocolli, gli elementi fondamentali in questo. Bisogna che i materiali didattici siano prodotti in modo cross-mediale, cioè cessare quelle filiere che dicevo prima, quella per cui c'è chi produce il contenuto di educazione linguistica e chi lo implementa. Bisogna fare un grosso sforzo intellettuale da parte degli specialisti dei campi di conoscenza, di impadronirsi gli strumenti di comunicazione per imparare a produrre materiale, ma questo appartiene alla dimensione intellettuale del rapporto con la con il proprio profilo di conoscenza. E poi il tema della legalità, dei diritti d'autore, del contenuto aperto, eccetera. Se voi facete un'inchiesta presso i vostri studenti, le cose che i vostri studenti sanno fare sono chattare, andare su Facebook, scaricare i film in DVD e la musica in MP3. E se voi chiedete ai vostri studenti, ma ti rendi conto che io ho il diritto d'autore? I miei dicono, e allora? Lo fanno tutti, perché non lo devo fare io? Lo fa pure mio padre, a proposito della messa in discussione della figura paterna. Lì non viene messa in discussione, cioè nel senso che va benissimo così. Lo fa mio padre, passa tutta la sera scaricando i film, io poi mi riguardo. Cioè guardate che abbiamo proprio perso un pezzettino del discorso, perché uno dei problemi del rapporto con i prodotti dell'ingegno, cioè il rispetto della paternità, non tanto delle royalties in senso stretto, ma di capire che quelli sono prodotti culturali, prodotti di ingegno, ce lo siamo persi, e i nostri studenti praticano la bulimia, sono degli studi dell'alimentazione anche dal punto di vista dell'intrattenimento culturale. Guardate, si sta affermando un concetto interessante, su cui vale la pena riflettere, che secondo me si collega un po' a quello che diceva Aldo. Se avete voglia andate a leggere un libro che si chiama La Baia dei Pirati, scritto da un italiano, si chiama Luca Neri, editore Castelvecchi, uno di quegli editori un po' underground che forse alcuni di voi conoscono. Questo signore cita un sito svedese di cui probabilmente avete sentito parlare, perché ultimamente in Svezia il partito dei pirati ha avuto risultati, ha avuto il 7%, cioè. Ora, il partito dei pirati teorizza che bisogna cambiare il rapporto con le major della musica, con le major dei film, e che in questo momento il saccheggio peer-to-peer, che non viene chiamato saccheggio, anche se nella parola pirata in qualche modo è assunto, il saccheggio peer-to-peer che avviene attraverso i giovani è destinato a modificare il mercato, perché se molte persone fanno così, questo mi chiama Betty Sloan negli anni 70, insomma, se molte persone fanno così, le cose sono destinate a cambiare, le major devono rendersene conto, i cantanti devono cessare di pensare di guadagnare con i diritti d'autore, ma devono piuttosto pensare di guadagnare con i concerti, con il merchandising, insomma, leggetelo se ne avete voglia. Ci sono delle riflessioni interessanti sul problema del rapporto tra diritto d'autore così come concepito dalla civiltà e dalla società industriale e il diritto d'autore in senso generale, cioè il riconoscimento della paternità di un'opera d'ingegno, un po' ingenue, e secondo me, per quello che ho capito fino adesso, poco convincenti, perché in realtà lì viene spacciato per diritto alla cultura, che secondo me è un diritto collettivo e solidaristico di una società, non di un singolo individuo, il diritto individuale al consumo culturale di intrattenimento. Poi per carità, i film possono essere anche film non soltanto Natale e Caraglio, insomma, possono essere anche altri tipi di film, però sta passando questa idea che secondo me un pochettino con questa storia della plus, come l'hai chiamato? Non mi ricordo. Del plus godere un pochettino c'entra, perché oramai siamo al plus godere su un versante di una criminalizzazione, di una criminalità talmente diffusa che da essere poco significativa probabilmente dal punto di vista etico, però che insomma qualcosa mi dice. Sì, infatti, perché questa è l'epoca della riconoscibilità tecnica dell'opera di ingegno, quale che sia, purché traducibile in bit, esasperata. Con in più il fatto che la qualità è la stessa, non è un'altra, capite? Perché un conto è molto... Un altro inciso che facciamo dopo su questo. I libri di testo messi, se sono libri, secondo me non sta giocata, ma ne parliamo magari nel dibattito, vediamo. Allora, noi abbiamo bisogno, come dicevo già prima, tra le righe, di costruire profili intellettuali, aperti, ampi, generali, e non profili tecnici, pratici, chiusi, che invece è quello che in qualche modo si è cercato di fare fino adesso. Abbiamo bisogno che le persone si formino con l'idea di esplorare, non di acquisire patenti e conoscenze valide una volta per tutte. Non so se vi ricordate, una delle grandi battaglie che fu fatte, parasindacali, visto l'ambiente in cui siamo, che fu fatta nel periodo di Fortuito, fu l'idea di dover avere un riconoscimento, perché nella nostra scuola continua a essere confuso il riconoscimento scientifico, cioè quello che ti danno se tu elabori delle cose dal punto di vista intellettuale, con il riconoscimento culturale, che è il certificativo, perché la nostra amministrazione li chiama così: se voi fate un concorso per titoli, si divide in titoli culturali e titoli scientifici. I titoli culturali sono la laurea, il master, eccetera. I titoli scientifici sono le pubblicazioni, gli interventi, queste cose. Noi abbiamo bisogno, non per tutti, per carità, forse un po' topistico, un po', non so bene, ma abbiamo bisogno di ragionare su, prendendoci aria, cioè respirando in modo largo. Dobbiamo puntare su quello che tutti sono in grado di fare, di sostenere, per esempio lo scrivere su supporto flessibile, che nel linguaggio gergale si chiama killer application. Cosa vuol dire? Cos'è una killer application? È una di quelle cose di cui non si riesce più a fare a meno, un'altra è la posta elettronica. Di queste due cose non si riesce più a fare a meno, come non riusciamo in realtà a fare a meno della radio e della TV, ma questo da tempo le abbiamo trovate nel nostro panorama comunicativo e cognitivo, quando ci siamo affacciati all'interno della consapevolezza. Allora, le killer application sono probabilmente le cose su cui puntare, cioè quelle che possono costruire una base diffusa. Nella formazione bisogna parlare di open source, di open content, insomma, da sempre sono velocemente. Una cosa importante, secondo me, è questa, che io credo chi di noi a scuola viva quotidianamente. Io mi ricordo anni fa, così vi faccio capire subito con un esempio, sono andato a fare un corso di formazione dentro Fortique in una scuola fuori provincia e ho detto avremmo bisogno di installare questo e quest'altro. Il tecnico mi ha detto no. Io ho detto va bene, mi sono dimesso all'istante e non ho erogato la formazione. Si è aperta una polemica e poi hanno... Allora, cosa voleva dire? Che in quella scuola a decidere che cosa stava sui computer non era il profilo intellettuale, il profilo collettivo, il collegio docenti, ma era il tecnico, cioè il profilo chiuso. Coloro che mantengono non devono decidere gli assetti. Io credo che nelle vostre scuole, di fatto, però stia succedendo ancora, in gran parte è così. Poi bisogna smettere di scimmiottare le strutture aziendali. Vi faccio un esempio, no, per capirci. Uno dei problemi che ci sono nelle scuole è che gli studenti, appena gli insegnanti si gira, vanno dappertutto. E andando dappertutto scaricano di tutto. E questo scaricare di tutto provoca anche malware, sapete cosa sono? Quelle rovine che vanno a dar fastidio al sistema operativo. Ora, per fare questo ci sono due modalità. Una modalità è comprare una certa scheda, che non importa qual è, che voi infilate nel PC, poi lasciate che lo studente faccia qualsiasi cosa, quando riaccendete il PC, la scheda è fatta in modo da ricostruire la situazione di partenza e buttare via tutto, quella porcheria che lo studente ha traficato. Questo presuppone soltanto che quello che lo studente produce, i suoi testi, i suoi laboratori, venga messo su un server che controllerà tutto quello che gli studenti, che conterrà tutto quello che gli studenti hanno prodotto. Questo modello però non è il modello aziendale. Il modello aziendale, prevede che il server sia sacro e che quindi lì non ci vadano i prodotti. Sul server ci debbono stare le gestioni fondamentali di un laboratorio gerarchico. E quindi nelle scuole viene riprodotto questo modello che implica una cosa demenziale che alcuni hanno tentato di applicare, cioè dare ad ogni studente un nome utente, una password e un profilo, in modo da controllare esattamente che cosa ogni singolo studente fa al momento dell'ingresso. Però noi mettiamo tutti, noi in genere impostiamo la possibilità di accesso con delle indicazioni anche. Esattamente, questo è il modello aziendale. Questo è il modello aziendale, per cui lo studente viene immediatamente, e in questo senso probabilmente rimangono ancora dei retaggi delle cose che citavamo prima, immediatamente abituato non ad avere un rapporto culturale con il PC e intellettuale, cioè come strumento di comunicazione e di informazione, ma ad avere un rapporto di tipo aziendalistico col PC, per cui lui fa solo quello che qualcuno ha deciso, e questo è il contrario, abbiate pazienza, dell'apprendimento. Questo è sul versante. No, non ho capito. Allora, il problema degli studenti che scaricano, quelli sono i filtri che sono un'altra cosa. Io non sto parlando dei filtri. I filtri sui contenuti sono una cosa e quelli ben vengono. Io non ho parlato di questo, ho parlato dell'idea che ogni studente entra con dei, si chiamano diritti, cioè con la possibilità di gestire solo alcune cose e soltanto quelle che qualcun altro ha gestito per lui. Che è il contrario della cultura e il contrario della formazione di una mentalità esplorativa. Io posso fare soltanto quello che qualcuno ha deciso che sono in grado. Questo è un problema grosso, certificare le competenze dei formatori. Perché fino adesso fondamentalmente si è proceduto sull'autocertificazione, nel senso di mi propongo come tale, e pian pianino ha funzionato, all'inizio, soprattutto nei primi anni, coloro che erano disponibili a spendere del buon tempo hanno acquisito sul campo, diciamo così, una serie di pratiche che hanno consentito loro di diventare figure significative nelle scuole, e in conseguenza poi magari si è innescato un meccanismo per cui nel prosieguo del tempo in quella scuola si sia riferiti soltanto a una persona. Volevo dire un attimo sulla questione degli ebook, perché mi è stata fatta questa domanda un attimo prima. Allora, in realtà su questo Marina e lì abbiamo scritto parecchie cose che potete trovare su internet, quindi se vi interessa vi do i riferimenti e le scaricate. Questi però sono un punto interessante, perché l'unico dibattito che è stato fatto nel nostro paese è stato Apocalittici Integrati, che è il classico dibattito che salta fuori tutte le volte che c'è una novità. Quindi gli integrati, coloro che in qualche modo pensano alla funzione messianica delle tecnologie, pensano che l'innovazione sia la novità che rompeva il passato, e pensano che chi si oppone a questo tipo di meccanismo di novità, che è uno dei possibili ordini della parola, danno a queste persone dei conservatori. Però gli integrati hanno detto sì. Perché è nuovo. Con questa parola hanno coperto qualsiasi tipo di... Perché è nuovo, perché è adeguato, perché appartiene alla società della conoscenza, come l'ha messa in crisi prima, Aldo, non so se ve lo ricordate, l'idea neo-ottimistica della società della conoscenza. E gli apocalittici hanno detto no, assolutamente no, perché il libro è un oggetto culturale. E hanno dimenticato una cosa banale, cioè che il libro è un oggetto tecnologico. Poiché è diventato un oggetto culturale, ma è un oggetto tecnologico, c'è un bel video su YouTube, andatelo a cercare, è la storia di un frate che riceve, abituato a usare i codices, i rotoli, tirava fuori un rotolo, lo legge, a un certo punto il suo convento gli compra un libro. E lui cosa fa? Chiama l'assistenza, non col telefono. Manda e arriva l'assistente e gli dice: ma che cosa succede? Non riesco ad aprirlo. E lui, perché non riesce ad aprirlo? Perché cerca di aprirlo dalla parte del dorso e non dalla parte delle pagine. E poi finalmente l'altro glielo fa aprire. Allora lui dice: ma cosa succede quando prendo un foglio e lo metto sull'altro? Quello che c'è, il contenuto dell'altro foglio sparisce? No, rimane, ma sei sicuro? E non è sicuro, perché capite, la separazione dei codices gli consentiva di dare oggettualità a ciascun singolo foglio. L'impilamento nel libro lo turbava. È ovviamente una forzatura ed è un ragionamento sul fatto che così come questi si aprono da una sola parte, e così quegli altri sono delle tecnologie. E quindi c'è stata un'epoca in cui il libro era una tecnologia nuova, adesso è una tecnologia talmente vecchia da appartenere al nostro background cognitivo. Noi non ci chiediamo in che modo lo dobbiamo usare, l'abbiamo visto usare, l'abbiamo colto il significato, eccetera. Quindi il discorso si fa molto lungo. Altra notazione su questa questione ebook libri. I libri rappresentano la stabilità della cultura. Cioè, non ancora adesso, guardate, per quello che ne so io, il diritto amministrativo riconosce le pubblicazioni su carta, ma non riconosce in modo preciso le pubblicazioni digitali. Quindi la carta ha, se non altro da questo punto di vista, dà un'idea di stabilità e di compiutezza nel sapere che il digitale non ha ancora. Ma questo non significa doverli mettere in contrapposizione, significa che la carta è il luogo del sapere compiuto, stabile, ripetibile, in qualche modo comprimibile, nel senso non negativo della parola, e il digitale è il luogo del sapere che ha bisogno di dinamicità per definizione. Allora io credo che nella scuola devono entrare tutti e due gli strumenti, senza inutili contrapposizioni. Terza cosa poi, la storia del risparmio. Probabilmente non c'è. Guardate che nessuno ha fatto un'indagine di mercato su cosa significa che io ho 1200 ragazzi nella mia scuola. Allora immaginate se, ovviamente lo dico per paradosso, se i 1200 studenti della mia scuola scaricassero i libri da internet. Certo, uno studente ha il suo libro. Allora, a parte il fatto che ne vede una pagina alla volta, ha tutti i libri impilati nello stesso... Guardate, immaginate il ragazzino che vuole vedere dov'è, che ne so, dove stavano gli assiri, che sono citati oggi, e c'è il libro di storia lì. La cartina dice: chiude il libro di storia e apre il libro di... mentre cioè, è banale, non c'è la possibilità di fare i confronti. Allora che cosa fa? Me lo stampo. Lo stampo perché lo separo, no? Da un unico oggetto tutto impilato lì dentro. Allora immaginate se di quei 1200, anche soltanto 100, si presentano tutti insieme nella sala stampa della scuola. Ci metti un minuto a stampa, sono 100 minuti, 10 secondi sono... ok? Sì. Di tutto, okay? Allora dice, vabbè, mi sacrifico e me lo stampo io. Immaginate se 100 ragazzini si presentano tutti insieme nella stessa copisteria, perché la più vicina scuola, potremmo andare avanti con queste barzellette. Oppure comportamento sadico,